può seguirla. Ferma il passo, guerriere, quale che ti sia, chiedersi la castella, entrasse la sorte, o di passar per questa strada a morte.